Mix 24 di Giovanni Minoli. Scusi, dov'è la scuola? Che cosa c'è scritto laggiù? Lo leggerei volentieri, ma per l'appunto oggi non so leggere. E allora impara. Ciao. Bravo, Somaro. Dov'è la scuola? Chiedeva Pinocchio. Oggi dov'è la scuola? Il dibattito ai nostri giorni si svolge intorno alle parole assunzioni, investimenti, diritto allo studio, superpreside, edilizia sicura, formazione digitale. Si parla in continuazione di buona scuola, di istituti privati e pubblici. E lo scontro politico diventa sempre più teso, ma i problemi della scuola restano tanti, alcuni nuovissimi e urgenti, altri mai risolti. Eppure di strada ne è stata fatta molta. Quanti di noi ricordano da dove veniamo? Nel 1861, l'anno dell'Unità d'Italia, il nostro è un paese di analfabeti. 78 italiani su 100 non sanno né leggere né scrivere. 78. Dopo 50 anni, all'inizio del secolo, è già stato fatto molto. L'analfabetismo è sceso al 46%, sono cresciute le scuole, soprattutto al nord. E la scolarizzazione, un processo che interessa prima le città e poi le campagne. Motore di questo cambiamento sono loro, sono i maestri. A loro il compito di insegnare a leggere, scrivere e fare di cuore. Adesso, Babbo, cominciamo con le proposizioni semplici. Di, a, da, in. Su, per, tra, fra. 5, 6. 5, 6. 1. 8. Negli anni 60 è già chiaro a tutti che chi non va a scuola sarà tagliato fuori dalla società. In tutto il paese, da nord a sud, si moltiplicano le scuole serali, ma nonostante il miracolo economico, restano due problemi ancora attuali in una parte del nostro paese. L'evasione dell'obbligo scolastico e il lavoro minorile. Perché non vai a scuola tu? Mia mamma non c'ha la possibilità di mandarmi. Non impari niente qua. E mo a 14 anni mi faccio il libretto del lavoro e me ne vado a lavorare. Perché non vai a scuola tu? Perché mio padre fa il pittore, siccome porta poco a casa mi può comprare i libri. Ma la scuola media è obbligatoria? È obbligatoria, d'accordo, ma è obbligatorio anche il mangiare, più ne è più obbligatorio il mangiare che... Ma la scuola è gratuita? La scuola è gratuita e nello stesso tempo chi è che mi porta qualche cosa a me? Non ci sono voluto andare più a scuola. E perché non ci sei voluto andare? Perché ho ripetuto due o tre volte. Voleva andare a scuola, ma io non c'era possibilità. Sarà avvantaggiata la bambina se andrà. Sarà avvantaggiata, sì, questa è verità. Ma però io non c'era possibilità, non è che non voglio andare a scuola. Mi sorge il cuore, mi sorge, ma non posso, che posso fare. E allora, per supplire alle carenze del sistema scolastico italiano, il Ministero della Pubblica Istruzione decide di avvalersi di un mezzo già molto popolare agli inizi degli anni 60, la televisione. E allora la RAI inventa un programma, Telescuola, che permette ai ragazzi residenti nei comuni senza scuole secondarie di completare il ciclo di istruzione obbligatorio. È il vero e proprio servizio pubblico. Come ogni mattina, i ragazzi di tutti i centri provvisti di scuole regolari corrono verso l'istituto in cui studiano per giungere prima che il bidello faccia squillare la campanella d'inizio delle lezioni. Coloro invece che abitano in zone dove non esistono ancora scuole secondarie si dirigono poco prima delle 13 al più vicino posto d'ascolto di Telescuola per seguire le lezioni che la televisione dall'inizio dell'anno scolastico in ottobre trasmette ogni giorno dalle 13 alle 17. Sono circa 80.000 studenti di tutte le età, pieni di una volontà quasi puntigliosa, caparbia, che non disertano mai le lezioni perché essi vogliono apprendere. Già da due anni Telescuola offre il suo insegnamento a tutti coloro i quali, per mancanza di scuole secondarie nei luoghi di residenza, sono stati costretti a interrompere gli studi dopo la quinta classe elementare. Telescuola è giunta così ai borghi più isolati, ai villaggi sperduti fra i monti. Grazie a Telescuola gli allievi possono inviare a una commissione gli elaborati svolti a casa e dopo un esame conseguire il diploma di scuola media. E insieme a Telescuola nasce un altro programma storico di cui si parla sempre, non è mai troppo tardi, con l'indimenticabile Maestro Manzi, un concentrato di intelligenza e di umanità. Non è mai troppo tardi. Cari amici, buonasera. Eccoci nuovamente insieme per imparare a leggere e a scrivere. Io direi però di più, per imparare a conoscere meglio il mondo e noi stessi. Signorina, adesso me li presenti, ci faccia sapere il nome di ognuno. Sì. La nonnetta qui è... Barboni Agata, ha 82 anni, e è mia nonna questa. 82 anni? Sì. E la signora? Virginia Sgamma. Quanti anni? 78 anni. Ecco, così. No, da qui, signora. Proseguiamo la lettura della nostra faccia. Vede bene? Non c'è rosa senza spina. Ma lei corre, legge veramente bene. Mi dica, avanti, avanti. Non c'è monte senza... Lì c'è monte senza cina. Mi dica la verità adesso. Da quanto tempo lei ha imparato a leggere? Due mesi. Sono due mesi. Ha visto che tante volte anch'io mi sono sbagliato quando scrivevo, no? Benissimo. E che cosa vogliamo di più, amici? Questo è il grande lavoro svolto dal servizio pubblico di ieri. E oggi? Oggi siamo davanti a un altro gap da colmare, quello del digital divide, una nuova alfabetizzazione che colmi il divario tra chi ha accesso e chi è escluso dal processo di informatizzazione. Una nuova grande sfida tra le sfide, e forse un servizio pubblico che si rispetti potrebbe iniziare proprio da qui. E anche di scuola parla il nuovo libro di Edoardo Albinati, La scuola cattolica, appunto, pubblicato da Rizzoli e candidato al Premio Strega 2016. Un romanzo fiume, quasi 1300 pagine, che racconta la formazione, le esperienze, la vita di un gruppo di ragazzi nella Roma degli anni 70 all'interno di un istituto privato, maschile e cattolico, il San Leone Magno del quartiere Trieste, frequentato dallo stesso Albinati, ma anche da Angelo Izzo e Gianni Guido, che sarebbero diventati, insieme ad Andrea Ghira, gli autori del massacro del Circeo del 1975. Un delitto atroce che è allo stesso tempo la molla e lo sfondo del racconto, ma ci torneremo tra poco. Intanto Edoardo Albinati, dopo aver studiato in quel San Leone Magno, da oltre 20 anni lavora come insegnante nel penitenziario di Re Bibbia. La scuola può tutto nel bene e nel male, Albinati? No, la scuola è una parte, cioè nella mia vita occupa una parte molto importante, anzi sembra quasi che io non sia mai uscito da quel circuito. Nella vita delle persone normali è forse la più lunga esperienza vissuta di tipo comunitario, però è ovvio che non è quella che esclusivamente forma le persone, gli individui. Oggi, per esempio, le famiglie fanno troppo poco e si aspettano che faccia troppo la scuola. Ho visto accadere molte volte questa richiesta da parte dei familiari ai professori come se fossero soltanto loro gli educatori. Nel corso di 20 anni è cambiata la tipologia dei suoi studenti in carcere? Beh, un pochino sì. Per esempio, quando ho cominciato c'erano ancora i politici. Poi quelli via via sono usciti e anche in carcere, anche se in misura penso molto minore, mi sembra di osservare quella progressiva caduta della capacità di ascolto e di attenzione che mi dicono essere la caratteristica principale della scuola nei ragazzi che la frequentano a 10, 12, 14 anni, cioè una certa impazienza e incapacità a concentrarsi dovuta appunto alla quantità di stimoli. Ora, in carcere di stimoli non ce ne sono, anzi, proprio mancano del tutto, eppure chi ha vissuto fuori una vita un po' frenetica poi fa fatica così a concentrarsi per un'ora consecutiva sulla matematica piuttosto che la fisica o... Due degli autori del massacro del Circeo, l'abbiamo detto, Izzo e Guido, erano suoi compagni di scuola. Ma che tipi erano? Secondo la definizione del nostro professore di italiano, che nel mio libro viene presentato sotto il nome magnifico di Cosmo, il professor Cosmo, erano due pendagli di forca. In quella scuola già si distinguevano, però per delle prepotenze e delle eccentricità che non avrebbero mai fatto pensare che poi questo diventasse una vita criminale come è stata poi la loro e soprattutto che sfogasse in crimini così spaventosi come quello del Circeo e ricordo quello commesso da Izzo nel 2005, Semi Libertà, quando uccise una donna e la sua figlia minorenne, che è poi la ragione per cui io ho cominciato a scrivere lì. Cioè, non la ragione, il momento in cui ho pensato ritiriamo fuori non tanto quei delitti che non sai raccontare tante volte quanto l'ambiente, il quartiere, la scuola, gli amici, insomma, dove tutti eravamo cresciuti insieme. Parlando del massacro del Circeo, lei ha detto: non posso evitare di pensare a quel delitto come a un episodio di una rappresaglia maschile effettuata da gente che aveva un mito di onnipotenza e di invulnerabilità portata all'estremo contro il più grande movimento politico del Novecento, il femminismo. Ecco, perché? parte il mio libro, comincio a vederla sempre di più, questa storia novecentesca, come un grande, immenso capitolo di una lunghissima guerra, una lunghissima lotta, che è quella dell'emancipazione femminile, che in effetti proprio in quegli anni lì, cioè dalla metà del secolo fino agli anni 70, è diventata così evidente e ha conquistato, di fatto, ha fatto delle conquiste, insomma, palpabili, tangibili, almeno nei paesi occidentali. E questo quando avvenne in Italia, cioè in un paese ancora molto tradizionalista e arretrato, provocò delle controspinte, diciamo, ispirate a un virilismo e a un maschilismo rinnovato, perché stavolta si doveva confrontare con una forza reale, non una forza, come dire, soltanto teorica, non sulla carta. Insomma, il movimento delle donne è stato molto forte in quegli anni. Allora ho cominciato a pensare che quel delitto, oltre che un episodio, se vogliamo, di lotta di classe, trattandosi di ragazzi benestanti che sequestrarono ragazzi di estrazione popolare, ma soprattutto come un episodio letteralmente di rappresaglia, cioè punirne alcune per educarle tutte, cioè era un segnale dato alle donne perché se ne stessero al posto loro, e agli uomini che non si lasciassero sopraffare da questa ondata. Senta, a 41 anni dal massacro del Circeo, comunque è venuto fuori che anche Manuel Foffo del diritto Varani ha frequentato il San Leone Magno, ma a parte la scuola, lei vede altri legami tra questi due orrori? Me l'hanno chiesto, accostandoli, soprattutto credo per, appunto, per la ferocia, per la lunghezza delle sevizie a cui sono state sottoposte le vittime del Circeo e di quest'ultimo delitto al Collatino. Io l'unica cosa che posso dire, l'unica impressione che mi sono fatta è che quando l'altro è totalmente indifeso, è totalmente alla tua mercé e tu hai una tendenza sadica, una tendenza comunque a voler sperimentare il lato estremo, che è quello della morte, non potendolo sperimentare su di te, lo fai su un altro. Cioè, questa è un po' la mia idea, che tutti costoro sono delle persone che hanno in realtà una pulsione violenta e forse di tipo suicidale. Cioè, io voglio sapere cos'è uccidere, no? Pare che avessero detto questi qua, Foffo e compagnia. Però in realtà ho la sensazione che volessero sperimentare, assaggiare un po' della propria morte. Le persone che non amano se stesse è più facile che poi non amino gli altri, non amino o addirittura si vendichino sugli altri. Grazie Edoardo Albinati, la scuola grazie cattolica Rizzoli. E questa domenica 17 aprile è il giorno del referendum sugli idrocarburi. E ce lo racconta, come sempre a modo suo, la Sora Cesira. L'astensione al referendum non è disinteresse, è un modo per dire no. E siccome quel referendum non l'abbiamo proposto noi, abbiamo cercato di evitare ogni tipo di scontro, anche facendo qualche... Sì, ciao! Il 17 io vo a votare. Trivella ciao, bella ciao, trivella ciao, ciao, ciao. Oh petroliere, portati via. Se per caso vince il sì, sto referendum ci è un po' costato. Trivella ciao, bella ciao, trivella ciao, ciao, ciao. Alle elezioni non si è accorpato, dice che non era chic. Non è che il premier è un po' stressato. Trivella ciao, bella ciao, trivella ciao, ciao, ciao. Dice che il seggio va disertato e che è meglio andare al mar. Ma dentro al mare ci ha mai guardato. Trivella ciao, bella ciao, trivella ciao, ciao, ciao. C'è il calamaro allucinato e la cozza al PVC. Oh presidente, ma che hai bevuto? Trivella ciao, bella ciao, trivella ciao, ciao, ciao. C'è chi per il voto ha combattuto e quindi al mare vacci tu. Buongiorno Alessandra Cravetto. Buongiorno Ale. Allora Ale, quale app consigliamo oggi alle smamme? Allora, oggi parliamo di telefonini. Telefonando io potessi dirti addio. Allora, il telefono oggi non lo usa più nessuno per telefonare e soprattutto i bambini, anche quelli più piccoli, sono drogati di telefonino. Lo prendono, sanno già il codice e lo usano per vedere i video, per giocare, insomma, vivono davanti a questi device. Però c'è un'app che si chiama Remote Parental Control che ti permette di controllare cosa fanno, di vedere che cosa stanno guardando, ma soprattutto ti permette di spegnerglielo, cioè con un click tu glielo blocchi. Ma è terribile, scusa. Comunque, io posso fare un attimo la smamma, no? Sì, certo. Allora, voglio dire, questo telefonino avrà anche una sua utilità. Per esempio, al ristorante è utile il telefonino. A noi ci piazzavano davanti al televisore e adesso ogni tanto c'è il telefonino. Sì, d'accordo, però sei molto smamma scorretto, perché se tu li abitui fin da piccoli, c'è il rischio che poi diventino così. Noi abbiamo Matteo Renzi, che ieri a un convegno ha detto: lui. Tagliamo i sospetti. Ma che vuol dire tagliamo? Ve lo giuro, scusa. Ha detto tagliamo i sospetti. È il suo modo di usare i servizi segreti. Ti tanga. Tagliamo i sospetti. Togliamoli l'amicizia dai social. Signori miei, io ai terroristi voglio dirgli le cose direttamente in faccia. Face to Facebook. Lui è drogato di Facebook. Basta con i like alle foto delle pizzate. Ha un problema con Facebook. Vive di sopra, evidentemente. Su Instagram postiamo solo foto dove hanno gli occhi rossi. Invitate dagli eventi che non esistono, tipo a per i party sul Brennero. La per i party, la per i cena, ma non ti rendi conto come parlano? Facciamoli vedere che siamo lì per farlo, ma non clicchiamo mai invio. Loro leggono. Sta scrivendo, è moderno, molto avanti, è storytelling. Prima impazziscono e poi si arrendono. Fidate, signori miei, fate come dico io e ne usciremo tutti sani e selfie. Hai capito? È l'inventore del selfie. Lui ha inventato il selfie, ma c'è una categoria che sta messa peggio di lui. No. Che sono le mamme che hanno inventato le chat di classe. A qualsiasi ora del giorno e della notte ti arrivano messaggini di cui, dobbiamo dire la verità, la maggior parte sono totalmente inutili. No, perché dici così? Fondamentali! Fondamentali, comunque... Però scusami Ale, non mi dire che hai un'app per bloccare anche quelle. Beh, una app specifica no, però se riesci a rubargli il telefonino, a installargli la app Remote Parental Control, gliele blocchi ed è bella che è finita. Se no, mi permetto di dare un consiglio a tutte noi mamme e anche alle smamme. Torniamo a usare il telefono per telefonare. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. David di Donatella, che poi sono io. Donatella, buongiorno. Hai chiamato tu o io? Non mi ricordo. Abbiamo chiamato noi, Donatella. No, perché siccome mi sta per finire il credito, c'ho pure un problema con i giga e mi sono rimasti tipo 10 messaggi. No, allora, guardi, Donatella, stia tranquilla, abbiamo chiamato noi. Che film ci racconta questa settimana? Una storia alla semplice, tipo che ci sono queste due tizie, no? No, ma il titolo? Il titolo è Nemiche per la pelle. E sai quei film che ti sembra di aver visto 500 volte, che c'ha quelle trame che hai sentito milioni di volte, che dici ma io questo film mi pare che l'ho già visto, però alla fine ridi. Insomma, parla di due tizie che hanno in comune un tizio. Donatella, scusi, tizia, tizio, Caio, non è che può essere un pochino più precisa? Ultimamente sei un po' dura di comprensorio, però io ti spiego. Allora, queste due sono molto diverse, però una sta con uno che è l'ex marito dell'altra, hai capito? Ho capito. Però lui sparisce e lascia a queste due un bambino mezzo cinese, mi pare. Tipo, sai, i bambini quelli che hanno gli occhi a fessura, cinese. Però loro non sanno come fare, quindi alla fine ti fanno ridere, capito? Tu devi condividere le tue cose con gli altri bambini. Non ti fa fregare dagli altri ragazzini, questa è roba tua. Scusami Paolino, ma che ti ha comprato il cellulare? Sì. Sì? Ma lei come pensa di educare questo bambino? Almeno io non me lo perdo per strada. Hai capito? Lo devono educare, però non si mettono d'accordo, perché alla fine una vuole fare in un modo, giustamente, e l'altra nel modo totalmente contrario. come succede nelle famiglie. Nella mia, per esempio, abbiamo litigato un sacco perché mio marito al bambino gli voleva comprare l'iPhone 6. Dimmi, adesso tu dimmi se ti sembra normale. No, dai. Mi sembra un po' eccessivo, francamente. Infatti, lo dico pure io, eccessivo per quella cifra, perché il Samsung fa le foto molto più colorate. No, hai, vabbè, capito? Donatello, ho capito, parliamo del cast, facciamo così. Ah, sì, aspetta che me lo sono scritto stavolta, t'ho fregato. Dunque, ci sta Claudio Gerini. È Claudia Gerini. Ah, e poi c'è, sai quell'inglesina biondina che parla benissimo italiano? Margherita Bai. No, ma no, Donatella, è Margherita Bui, che è molto italiana. Ma sei scema? C'è il nome inglese. Senta, Donatella, vale la pena vedere Nemiche per la pelle? Per la... Sì, la pelle. La pelle. Mi sono sbagliata pure te. Sì, senta, Caruccio, Donatella, dicevo, vale la pena vedere Nemiche per la pelle con Claudia, sì, Gerini, Margherita Bui e la regia di Luca Lucini? È Caruccio. Basta che, però, quando entrate, portate pazienza e non cominciate a dire cose tipo: ah, io però questo film l'ho già visto da qualche parte. Ah, io questa battuta l'ho sentita. Ah, ma non l'hanno fatto in TV. Ah, vabbè, ho capito, Donatella, grazie. Ma tu ce l'hai il mio numero per caso? Ma certo, Donatella. Senti, non è che per caso mi fai una telefonata silenziosa di 40 minuti così mi ricarico? Grazie, arrivederci, Donatella. Dai. Pietrangelo, buongiorno. Buongiorno, Alessandra. Pietrangelo, dove andiamo oggi? Oggi andiamo a Bari. E come vedi siamo accolti dalle note che Morricone volle costruire e concepire per i basilischi di Lina Wertmüller. Siamo a Bari, nel contrasto esatto tra il cielo bellissimo e le profondità buie. E ne approfitto per presentarti Marcello Introna. Buongiorno Marcello. Buongiorno, buongiorno a voi. Marcello, tu hai scritto Per Coco, che è, sì, un romanzo, un noir, un thriller psicologico, ma soprattutto è una storia vera. Perché Franco Percoco è quel mostro di Bari che nel 1956 ha ucciso la madre, il padre e il fratellino Down in una palazzina, esatto, di via Celentano a Bari. E poi per 12 giorni ha nascosto i corpi all'interno della casa. Una storia purtroppo molto attuale. Ecco, Marcello, sì, ma come ti sei interessato a questa vicenda? Ma sai, ogni città ha i suoi record. Noi fra questi record amiamo ricordare questo, d'aver avuto il primo stragista familiare del Novecento. Quindi niente, a me è venuto in mente, trovando un articolo che trattava di Sara Scazzi, e poi c'era un trafiletto che si riferiva a Franco Percoco. Siccome io avevo un conterraneo così tanto esimio, mi è venuto in mente di indagare il faldone del processo, e poi mi sono accorto che alla fine nella vita di questa persona la strage è un fatto incidentale, perché... Ecco appunto, ma studiando a fondo la storia di Percoco, ti sei chiesto quanto possa essere forte l'influenza che la famiglia ha sulla psiche di un ragazzo? Nel caso specifico di Percoco, che era comunque un depresso e non era proprio perfettamente normale, è stato il discrimine, la pressione della famiglia, non per giustificarlo, perché non lo giustifico, però sinceramente ho compreso, è stata assolutamente la scintilla che poi gli ha fatto partire sto raptus, perché comunque considera che se uno che è alto 1,70 m, che pesa 60 kg, riesce a disarticolare due femori, vuol dire che è in preda a un raptus, perché disarticolare due femori ci vuole una forza veramente enorme. Parlo da veterinario, quindi insomma un'articolazione e una tensione molto forte. Uccide padre, madre, fratello piccolo, la crudeltà, sì, per eccellenza nella memoria della città. Mi viene, sì, in mente, ma... che appunto le tare genetiche si danno appuntamento nella mente di un uomo per destinarsi a un risvolto criminale, però c'è un dettaglio che mi incuriosisce molto e te lo chiedo proprio perché ho la curiosità. Ma qual è la differenza tra la Bari di Percoco e poi Avetrana? Il contesto sociale è molto differente, nel senso che il contesto sociale di Avetrana è un contesto molto più popolare e molto più subculturale, se mi passate il termine. La famiglia Percoco era una famiglia borghese, lui, lo stesso Franco, l'assassino, era uno che nel 1956 aveva cambiato 3 facoltà, e questo faceva di lui sicuramente un privilegiato, perché insomma all'epoca la cultura era un bene decisamente più elitario. Credo che nella storia della Vetrana sia più un discorso relativo alle gelosie personali e a, comunque ripeto, un tappeto di ignoranza veramente agghiacciante. Per Coco è molto differente da uno come Pietro Maso, per intenderci. Ma nella tua tavolozza quali colori hai adoperato? Quelli forti dei basilischi della Vermeuler oppure la cupa tinta dei romanzi russi, visto che comunque Bari un po' Russia è? Io quando ho approcciato alla storia ero convinto di vedere schizzare sangue e budella. In realtà non è per niente così, diciamo, i toni che ho utilizzato sono toni tinte tenui, diciamo così. Tinte tenui. Sì, assolutamente. Non ripeto, la strage è incidentale, questo ha passato la vita tra una sfiga e l'altra, poveraccio, ecco. Io non lo giustifico, ma l'ho compreso, ecco. Io non molto, non molto. Marcello Introna per Coco Mondadori. Grazie. Grazie Marcello. Grazie di cuore davvero, grazie a voi. Mia bella signorina che ascolti lassù, so chiudi gli occhi e sogna finché c'è la gioventù. Franco Schipani, eccoci, ciao. Buongiorno Alessandra Fiori. Nicoletta Strambelli, sempre innamorato di lei. Il tuo grande, grande amore. Sì, io mi ricordo andavo al Piper, cercavo di entrare, ero quasi minorenne, e vedevo questa dea che entrava dalla porta principale, seguita da un codazzo di fotografi, c'era Maurizio Vandelli, c'erano tutti i miei idoli, e io fuori che non potevo ancora entrare perché ero minorenne. Eri vicino. Non mi facevo Poi entrare, ti sei fatto il documento falso, ma questa è un'altra storia. Ma quella è un'altra storia. Comunque Patti Pravo ha superato con successo tutti i capricci delle mode musicali grazie alla sua forte personalità artistica. Alessandra è una donna generosissima, un'artista coerente e spesso rivoluzionaria. I suoi concerti sono sempre una buona occasione per vedere un po' il meglio della canzone italiana, pop e non pop, insomma il meglio del meglio dagli anni 60 ai giorni nostri. Abbiamo capito, l'ami. L'ami, va bene, tu vai, vedere, quindi dici quando vai e dove. Guarda, sabato 16 aprile, quindi domani, al Gran Teatro Palabam di Padova alle 21:30 precise. Senti che ritmo. Io sento, ma Franco, io non capisco, me lo devi spiegare. Lui è Marcus Miller, un musicista di quelli che ne nascono pochi ogni generazione. Lui è nato a Brooklyn, pensa che ha studiato clarinetto e poi suonava l'organo in chiesa. Poi è diventato un musicista di fama internazionale grazie a questa sua tecnica di basso che senti in sottofondo, che è veramente una cosa fantastica. E non a caso è stato scelto da oltre 500 artisti per collaborare. Capisci? C'è da Miles Davis, dal dio del jazz, al punk Billy Idol. Non si è fatto veramente mancare nulla, Marcus Miller. Quindi vi consiglio di andarlo a vedere, perché se vi piace la musica è una buona occasione per ascoltare quella veramente buona. Domenica 17 aprile al Gran Teatro Geox di Padova alle 21:15 e finirà molto, molto, molto tardi. Perché? Però ne vale la pena. Nessuno mi può giudicare. So che ho sbagliato una volta e non sbaglio più. La verità mi fa male, lo so. Dovrei ecco, pensa a una ragazzina negli anni 60 che dice voglio fare la cantante. Dico, ma sei una folle. Beh, no. Ci hanno pensato un po' di ragazzine negli anni 60, sì, però, non tutte ci sono riuscite. Ma non era come oggi che fai gli X Factor, che vai, che mandi certo, CD, che stai certo su YouTube. Cioè, una dice sposati, fai dei figli, organizzati. Cioè, era un po' un atteggiamento rivoluzionario. Comunque, questa ragazzina si chiamava Caterina Caselli, dopo una durissima gavetta fatta di feste rionali, concorsi canori. Ecco, lei è arrivata al Festival di Sanremo, diventando poi un'icona per tantissime teenagers. Cantante, poi scopre talenti internazionali, diventa imprenditrice. Quella di Caterina Caselli è la storia di un artista e di una donna di grandissimo successo. Questa storia ce la racconta Giovanni Minoli. Restate con noi.